in controprogrammazione con la rivista Q, prima o poi anche noi di Pane, Burro e Rock and Roll faremo un sondaggio per decretare la canzone più italiana. Che schifezza, sì. Verrebbe fuori Volare, anzi sarà, è già così probabilmente. Oh, sono un italiano vero. No, anche no. L'italiano di Cotugno. Comunque il test di oggi parlava di un sondaggio della rivista Q che decretava la canzone più British di tutti. Avete fatto la vostra scelta? Maestro, ci dia le soluzioni. Prendete carta e penna, date un'occhiata al vostro block notes. La soluzione A proponeva la seguente risposta: Born in the USA, nato negli Stati Uniti d'America, che è una bella contraddizione, di Bruce Springsteen. Se l'avete scelta, siete dei pazzi scatenati, è una contraddizione in termini. Era sbagliata, passiamo alla seconda ipotesi, la B. God Save the Queen, Dio salvi la regina. Già più plausibile, ma, dei Sex Pistols, dunque questo scoraggia un attimo. Ma non è questa. Sbagliata. Non è questa, anche e perché allora esiste già l'inno, quindi perché, esatto, scegliere una canzone che già ricopierebbe le note dell'inno, comunque i contenuti dell'inno. E quindi la soluzione esatta era la meravigliosa A Day in the Life, tratta da Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band dei Beatles, che viene decretata soprattutto la canzone più inglese di tutti i tempi. Ma ci dia un'idea della classifica. Guardi, ero pronto a farlo. Al secondo posto ci troviamo Waterloo Sunset dei Kinks. Waterloo Sunset. Benissimo. No, piace, la conosco. Se la canticchiava. Waterloo Sunset. Al terzo posto Wonderwall dei I giovani Kinks. Sì. Riflettiamo un attimo sui Kinks. Sì, riflettiamo. Ga. Esatto. You really got me. Kinks, gruppo che ha avuto un successo meritato e strepitoso in madrepatria, in Inghilterra, sì. E che nel resto del mondo, in Italia in particolare, è quasi misconosciuto. Ma come noi di Pane, Burro e Rock and Roll li supportiamo. Li supportiamo, attenzione, non è non che li sopportiamo. No, li supportiamo, cioè li sosteniamo a gran voce. Bravi i Kinks. Proseguiamo nella classifica. Al terzo posto Wonderwall degli Oasis, e nelle prime 10 posizioni segnaliamo la già citata God Save the Queen, che si è meritata un posticino nella anche versione lei, dei Sex Pistols, ovviamente. Anche. No, solo nella versione di Sex Pistols. Ah, complimenti. My Generation degli Who, Bohemian Rhapsody dei Queen, Life on Mars di David Bowie e Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, che non potevano non partecipare anche loro a questa classifica. Avete indovinato? Avete sbagliato? Fa niente, vi vogliamo bene lo stesso. Continuate ad ascoltare il test attitudinale di Pane, Burro e Rock and Roll. Riceverete la meritata tessera di autentico rocker. Forse. Vedremo, ma chissà. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Allora ufficiale, A Day in the Life dei Beatles, è la canzone più britannica di tutti i tempi, lo diciamo anche delle frequenze di Rock FM, seguendo questo sondaggio della rivista Q. Era questa la domanda del test attitudinale di quest'oggi, 8 e 37 minuti primi, questo è Pane, Burro e Rock and Roll, che ogni giorno a quest'ora ha l'appuntamento con il test attitudinale. Nelle nostre due ore mattutine abbiamo un debito nei confronti dei Beatles, soprattutto da settimana scorsa, quando abbiamo iniziato a prendercela con le loro meravigliose canzoni, distruggendo Hey Jude, trasformata in Hey Giuditta. Tra l'altro vi avviso che anche questa settimana mi sa che ne famo un'altra, ma non preoccupatevi, potete sempre girare stazione radiofonica per tentare di pareggiare questo contrasto con i Beatles. Vorrei segnalarvi un DVD che ho avuto il piacere di acquistare qualche giorno fa. Si intitola USA contro John Lennon. Il titolo originale è US vs. John Lennon. Un bellissimo documentario di 99 minuti dove si approfondisce la fase, diciamo la fase Yoko Ono di Lennon, quindi un John Lennon trasferitosi a New York, che inizia a protestare contro la guerra in Vietnam, che protesta per l'arresto del buon Sinclair, se non ricordo male, arrestato per spaccio di marijuana. Insomma, un musicista che sembra iniziare a dar fastidio addirittura al buon Nixon, a tal punto da ricevere una sorta di sfratto dagli Stati Uniti d'America. Sfratto direi che è proprio la parola sbagliata, ma ci siamo capiti. USA vs. John Lennon, se siete appassionati dei Beatles. Io lo consiglio anche a chi ha un po' il pregiudizio Yoko Ono, no? Solitamente i puristi dei Beatles non hanno una grande passione per l'artista Yoko Ono, ma in questo documentario sicuramente ci sono tantissime immagini di Lennon che io personalmente fino a ieri, quando me lo sono visto, non le avevo mai viste, ed è molto interessante. Ci sono anche le immagini, per intenderci, del bed in ad Amsterdam, sotto nel letto nuziale, questa settimana passata con i giornalisti in stanza, dove poi registrarono Give Peace a Chance. Insomma, un bellissimo documentario che Pane, Burro e Rock and Roll vi consiglia, USA vs. John Lennon. Lui invece è Eric Slowhead Clampton, I Shot the Sheriff. Yeah, check it out. I shot the sheriff. Trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy. I swear it runs in silky veins. I shot the sheriff, but I swear it runs in silky veins. Classico della produzione di Bob Marley, rivisitata dal buon Eric Slohan Clapton. I shot the sheriff. 8:43 minuti primi, la colazione di pane, burro e rock and roll servita sulle frequenze di Rock FM. Ricordo spesso e volentieri il 335-100-7777, linea di contatto preferenziale per entrare a interagire con noi. Io devo fare parecchi saluti, lo accennavo a inizio trasmissione, in particolare, tornando velocemente a questo venerdì notte che ho passato in terra toscana, devo salutare due radioascoltatrici che sono venute lì in console, ma tu sei Ariel, sì sono io. Le ragazze mi hanno guardato con occhi sgranati e cercherò di condividere con voi questa emozione, erano un po' spaventate dalla mia figura, devo confessarvelo, e la loro domanda era: ma Ariele, come fai a pensare tutte quelle cose alle prime luci del mattino? Allora io devo svelare alle due amiche e a tutti gli altri che tutto quello che sentite è scritto dalla redazione. Anche in questo momento io vi sto parlando, ma sto leggendo un foglio scritto dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Non si improvvisa nulla in questo spazio radiofonico, è tutto preordinato da un copione studiato durante le notti insonni di Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao amiche, comunque restate sempre con noi. A proposito invece del nostro nuovo tormentone, ovvero Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà. La nicchia sempre, Garavelli, mi raccomando, non capire male. Altro sottotitolo: vinceremo noi su di tutti. Mi scrive Alba via SMS, commenta: ho dietro di me una macchina di Radio Capital, cosa faccio? Ingrano la retro? No, Alba, se... è molto più comodo sfasciare le macchine delle altre radio, non è assolutamente una buona idea, per quanto rock, lo devo ammettere. Preferirei, guarda Alba, fai così: nel corso della giornata datti questo compitino, devo far sapere a due persone che ancora non lo sanno che al mattino possono svegliarsi con Pane, Burro e Rock and Roll. È più utile questo che non sfasciare la macchina di un'altra radio. Poi se tu avessi quelle cose un po' tipo James Bond, che schiacci, esce solo la macchia d'olio, beh, si potrebbe fare. Mi spiace che ti rovini la tua macchina, capito? Grazie Alba! Pane, burro e rock and roll, la trasmissione che non trascura, che non snobba né sottovaluta i proverbi e qualche volta apprezza le battute e le barzellette. Sa cosa fanno DJ Ariel? Sì. Sa cosa fanno mille avvocati in fondo al mare? No, non ne ho la più pallida idea. Roberto, cosa fanno mille avvocati in fondo al mare? Grazie per avermelo chiesto. Un ottimo inizio! È una battuta americana, statunitense, laddove si sa la popolazione degli Stati Uniti d'America da secoli è tradizione che non apprezzi gli avvocati. Ma sa che mi ha dato il destro per lanciare la notizia di quest'oggi? Le ansie in ansia, quelle notizie che tutti gli altri hanno scartato e che noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll raccattiamo al volo. Lei intende dire l'occhio sul mondo della nostra trasmissione? Esatto, esattamente quello, e ci trasferiamo nell'Ohio. Yeah! Udienza movimentata, quella che si è tenuta in un'aula del tribunale di Columbus. Un imputato particolarmente focoso ha preso a calci il proprio avvocato davanti agli occhi increduli del giudice. Per riuscire a calmarlo, gli agenti della sicurezza hanno dovuto usare il taser, delle speciali pistole in grado di stordire il bersaglio con potentissime scariche elettriche. Lei ne sa qualcosa, maestro? Stando a quanto raccontato dal magistrato, il criminale avrebbe cominciato di punto in bianco a prendere a pedate il suo avvocato difensore. Pare che la strategia scelta dalla difesa non fosse di suo particolare gradimento. Da lì a prendere a calci l'avvocato, un po' ne passa. Beh, dipende. Se l'avvocato era un filo, con tutto il rispetto per il cane, naturalmente, un filo cane, forse un cane lo si prende talvolta a calci benevolmente. No, nemmeno il cane. Nemmeno il cane. Non si può, non è corretto. Concludo velocemente. L'uomo, una volta ripresosi da quello che risulta essere di fatto un elettroshock, è stato riportato in aula, questa volta ammanettato e imbavagliato. La morale di quest'oggi è: non prendete a calci il vostro avvocato. Ma neanche uno sputacchio, se fa molto male? Dipende, se vi interessa una bella scossetta di elettroshock potrebbe essere invece una buona idea. Un esperimento da provare, un teaser in ogni tribunale. Secondo lei, se iniziamo a prendere a calci Spadino, ci immobilizzano con il teaser? No, secondo me ci danno una medaglietta. Attack, and they turn into a ballroom blitz. gli Sweet, The Ballroom Blitz. Mancano 3 minuti alle 9 spaccate, è andata anche oggi. Andiamo ad archiviare la 16ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Un po' mi inizia a farmi ridere questa chiusura, Spadino. This is the end. Ci ritroveremo domani dalle 7 del mattino fino alle 9 in rigorosa diretta. Ogni giorno sempre di più. In tanti mi avete chiesto quest'oggi a che ora l'appuntamento di domenica a Cascina Monlue. Ovviamente presto, soprattutto se siete interessati alla patente da vero rocker. I quiz li faremo prima del concerto degli Skiantos, quindi intervenite presto, noi siamo lì anche a cena, insomma, ci si vede lì. Scatta la sigla, Pane, Burro e Rock and Roll, lunedì 24 di settembre, tra poco, Marco Garavelli. Pane, burro e rock and roll, anche Mister Trombetta vi saluta. La tua colazione rock, la migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll, torna domani con l'Ariele, Spadino e Fricantoni. Cosa volete di più? Lucano? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Eccolo lì dall'altra parte del vetro come ogni giorno. Ci sei, Garavelli? Ci sono. Sai che non so, prova, dimmi, scusa, ridimmi. Posto di no, qua. No, hai ragione. L'ho fatto anch'io una volta. Stavo facendo un po' di casino. Do il buongiorno a te. Vorrei ricordare un paio di cose a chiusura del programma. Vai. Prima di tutto la festa di Rock FM sabato prossimo all'Alcatraz con la Rock FM All Star Band. Non questo, quello dopo ancora, 6 ottobre. L'altro appuntamento che devo assolutamente ricordare, anche perché intravedo che il mio cellulare personale squilla e dall'altro capo c'è Mox Cristadoro che mi sta qua sul collino. Persecuzione. Una vera persecuzione. Quest'oggi si celebra, secondo i calcoli di Mox Cristadoro, che sono certamente precisi, l'anniversario di Easy Riders. Una volta aveva la S il programma, perché eravamo in due. Plurale. C'ero anch'io. Ho già confessato che probabilmente è gran parte colpa mia se Mox Cristadoro parla. Gran parte. È colpa mia se Mox Cristadoro parla da queste frequenze. Prendetevela pure con me. Quest'oggi lo ricorderemo all'interno. Lo ricorderemo, sembra un po' che ha fatto una brutta fine. No, Mox c'è ancora, condurrà ancora Easy Rider. Ricorderemo l'anniversario della nascita di Easy Rider da mezzogiorno alle 2. Specialone oggi. Tu quando fai l'anniversario di Arden Davy? Non me lo ricordo più. Dovresti appuntarti le cose come fa Mox, vedi? Ho soltanto un autore, non ho le segretarie, eccetera. Va bene, Garavelli, ti lascio i radioascoltatori. Grazie. Trattameli male. Bene, oggi bene, lunedì, dai. Ti stai preparando per il test attitudinale? Guarda che a te la patente mica te la regalo. Ma mi hai detto la prima, è la tua. Sì, ma prima devi fare il test. Ah, se vabbè. Sbagli, mica posso darla a te perché sei Garavelli. Hai ragione. Devi fare anche tu. Anche questo è vero. Tanto è semplice il test. Va bene. Tranquillo. Ok.